Il vulcano, tremori insaziabili di molto profondo del nostro essere. Tremori insaziabili che fanno correre il magma attraverso le grotte del nostro Eden. Cuore di terra che pulsa, cuore di mondo che trasforma il suo fronte, cuore del mondo che trasforma il suo modo di evoluzione. Alloggi nelle viscere, alloggi come su seta, alloggi per far scorrere il magma e lasciarlo fuori, alloggi per far trasformare il modo e la sua evoluzione. Tremori insaziabili che non hanno cessato della loro formazione, tremori insaziabili che ha datato e nonostante la paura, nonostante il rimpianto. Cuore di terra che pulsa, cuore del mondo che trasforma il suo fronte, cuore del mondo che trasforma il suo modo di evoluzione. Tremori insaziabili che fanno correre il magma attraverso le grotte del nostro Eden. Tremori insaziabili di molto profondo del nostro essere. Cessare.